po' una vigilia del Festival delle Resistenze, quello di questa sera qui alla Biblioteca Provinciale, che come avete visto è un piccolo posto, però molto vivace, che non perde un'occasione di collaborare, di partecipare a tutto quello che viene creato e ideato nella nostra provincia. In particolare saluto i colleghi del Servizio Giovani, Claudio Andolfo e Luca Bizzarri, e Silvia Rotelli, che questa sera presenterà il suo progetto fotografico legato alla memoria, che si inserisce appunto nel contesto del Festival delle Resistenze. Sulla sedia avete parecchia documentazione, abbiamo messo una rivista che raccoglie dei percorsi di lettura, sempre legato al tema del bene comune, che sarà un leitmotiv che tornerà anche nel Festival delle Resistenze. Il calendario con tutti i programmi, tutte le attività e gli eventi legati a questo festival, qualche cartolina delle prossime iniziative della biblioteca. Vorrei ricordare anche che questa biblioteca partecipa poi direttamente al Festival delle Resistenze il 29 e il 30 di aprile, lunedì e martedì prossimo, in Piazza Matteotti, dove nel primo pomeriggio faremo delle letture animate dei testi che abbiamo scelto per questo percorso di lettura. Nella convinzione che anche la resistenza e comunque l'impegno, l'attività, la partecipazione attiva alla vita civile, alla vita quotidiana, parte anche da un percorso che ognuno di noi può fare. La biblioteca è una splendida occasione democratica e aperta a tutti, a chiunque, per crearsi un proprio percorso culturale o anche semplicemente per avere sempre più informazioni in maniera libera e anche informale. Questa biblioteca fa delle iniziative ogni settimana per promuovere l'incontro con autori e per favorire la conoscenza e anche così la conoscenza dei servizi che noi facciamo. Ed è per questo che prima, pochi minuti fa, abbiamo distribuito dei volantini e dei moduli di iscrizione. Se vi fa piacere, qui possiamo metterci a disposizione delle vostre richieste bibliografiche, ma soprattutto abbiamo anche una banca dati e la possibilità di farvi accedere anche da casa a 1900 riviste online gratis in 50 più lingue. Quindi sono i quotidiani di tutto il mondo, in poche parole. Ecco, adesso dopo questo spot che è doveroso perché è un bene comune questa biblioteca e quindi dobbiamo farla conoscere e farla soprattutto usare dai protagonisti che siete voi e che siamo noi, passo la parola a Silvia Rotelli, che ha già preso parte al Festival delle Resistenze con la sua freschezza, la sua creatività, l'innovazione, sa coniugare generazioni, temi, mettere insieme le persone e restituirci delle immagini sempre vive e molto emozionanti. Grazie. A te Silva. Scusate una cosa, arriverà l'assessore che intanto ci saluta, però ecco, con un po' di pazienza perché è ancora impegnato in una commissione. Bene. Grazie. Grazie a tutti. Vi presento un po' il progetto che abbiamo fatto quest'anno, che si chiama... Diamo subito il microfono. Si sa. Va bene così? No, così? Di più? Mamma mia, non so usare. Bisogna stare attenti solo per l'ampliamento. Che ce la facciamo? Sì. Ok. Si sente? Ok. Allora, vi presento il progetto Family Book. Ma non si sente? È un po' meccanico. Prova a urlare così? No, usa il microfono. Prova a urlare? No. Vado? Posso? Adesso okay. Vai. Vado. Allora. Questo mi sa che tiene fastidio. Ok. Bene, iniziamo. Allora, vi presento il progetto Family Book che abbiamo realizzato quest'anno per il Festival delle Resistenze. Va bene? No. Ok. Ok. Vado qua. Fabio, vicino. Allora, è un progetto che ha utilizzato le fotografie di famiglia come base per iniziare poi un dialogo tra generazioni e culture. Gli incontri sono avvenuti all'interno di abitazioni e all'interno anche di negozi e di centri di giovani. Quindi ringrazio innanzitutto chi ci ha ospitato, tutte le famiglie che ci hanno ospitato, che ci hanno permesso di realizzare questi incontri. E, ogni giornata veniva in questo modo. Si partiva dalla narrazione a testimonianza dell'anziano, che sono tutti qua. Ognuno raccontava le proprie testimonianze e queste innescavano poi dialoghi con tutti gli altri. E la fotografia è stata così usata come testimonianza dell'esserci e del poter quindi in qualche modo ognuno quotidianamente portare la propria resistenza. Come oggi vi farò vedere quindi qualche foto, più o meno per capire come è stato realizzato. Vi presenterò la brochure in cui abbiamo quindi raccolto tutti i vari gruppi. Abbiamo infatti creato 5 gruppi che hanno creato questo percorso. E in questa brochure, che è un po' un poster che vi verrà consegnato alla fine, sono tutte qua, dove abbiamo la linea del tempo, ci sono tutti i frame del video realizzato e poi di ognuno di voi c'è la fotografia più importante. Ad ognuno infatti ho chiesto di portare la fotografia per lui più importante e la fotografia che ha segnato un po' un cambiamento nella propria vita, la fotografia chiamata Spartiacque, e da lì infatti è iniziato il dialogo. Lo scopo di Family Book era quello di ringraziare chi ha portato la propria testimonianza, chi dal passato ha portato i valori, prenderli in qualche modo per quel che possiamo in mano e portarli avanti. E, vi faccio vedere alcune fotografie che abbiamo. La mostra con tutte le fotografie inizierà domani al Festival Resistenze, dentro appunto un container che si chiama Family Book, dal 25 aprile al 1 maggio. Ed è così che Orazio ci ha raccontato come la propria famiglia, come ci ha raccontato prima e dopo della guerra. Perché va in risonanza con l'amplificatore, per quello. Facendoci vedere le fotografie della propria famiglia prima e dopo. Questo è un assaggio, le fotografie che vedremo del dopo le troverete poi alla mostra. Portandoci quindi il valore della famiglia, di come è riuscito a superare i dolori, le fatiche, tutto ciò che ha dovuto sopportare, grazie comunque sapendo che c'era la famiglia a casa. Ed è così che Family Book si è basato sull'umano, quindi sul valore dell'umano, sul ritornare all'umanità. Il nostro concetto che insieme è uscito fuori da tutti quanti noi, e ditemi se siete d'accordo, perché più o meno questo, visto che qua siamo tutti Family Book, più o meno, che la resistenza è ritorno all'umano, alla riumanizzazione, a stare insieme 24 ore su 24, come ha detto uno dei nostri resistenti partecipanti al Family Book. E questa è un'altra fotografia della signora Rosa, che oggi che è la signora della copertina del Festival delle Resistenze, sempre sul valore dell'umano. C'è chi ci ha raccontato quanto la famiglia possa essere anche una famiglia allargata, quindi la nonna per forza non deve essere solo esclusivamente la nonna di sangue, ma possiamo anche stare insieme e condividere i valori con tutti. C'è chi ci ha dimostrato quanto questa fotografia di Cristina, quanto piano piano si porta avanti i valori del proprio papà, della propria famiglia, con fatica. Chi può portare avanti un'attività artigianale oggigiorno ha le sue fatiche, ma la passione e la forza di vedere nel cliente, nella persona che viene, di donargli i ricordi, perché Cristina appunto ha un'attività di fotografa e quindi la sua resistenza è nel riuscire a donare agli altri dei bei ricordi. E questa la sua passione, porta avanti il suo lavoro nonostante le fatiche. C'è chi nonostante tutto, e attraverso una fotografia fatta da un cellulare, nonostante tutto quello che ha passato, dirà che ce l'ha fatta ancora. e poi piano nel container capirete più o meno la storia di, delle persone. Arrivare fino a chi oggigiorno vive qua, di seconda generazione, e cerca, nella resistenza cerca un collegamento con la propria, col proprio paese di origine. E così la fotografia, ognuno portava le proprie fotografie e da lì iniziava quindi a raccontarsi e a cercare appunto di trovare un modo di resistere e di raccontare la propria storia. Ed anche qui, come appunto la nonna di Sara, racconta anche lei il valore della famiglia. Sono valori che, nonostante il luogo da cui uno viene, nonostante il paese, nonostante tutto, sono valori che riguardano l'umano e di conseguenza riguardano tutti quanti noi. Per parlare appunto dell'affetto, di quanto in questi gruppi abbiamo cercato di creare un clima di affetto, da cui poi uno ha iniziato quindi poi a raccontarsi, a raccontare i propri valori, le proprie resistenze quotidiane. E ora vorrei passare la parola a una partecipante, a Gladys. Grazie. Che ci racconta un po' la sua esperienza in questo gruppo, in questo progetto, visto che il progetto è stato fatto da tutti voi insieme. Bene, buonasera a tutti. Io sono stata invitata da Silva a partecipare in questo progetto, bellissimo progetto. Io sono argentina, sono qua da 12 anni, costretta ad andare via dopo una situazione economica molto critica, politica e sociale. Quando Silva mi ha chiesto che cosa è... Si gira un po' in qua, così. No, questo. Quando Silva mi ha chiesto cosa è per te la resistenza, io il primo ricordo che mi è venuto in mente riguardo al Desaparecidos in Argentina, una cosa è una guerra, quando uno torna di una guerra può tornare mutilato o senza vita, ma un desaparecido uno continuerà a cercarlo per il resto della sua vita. Resistere per me è resistere fino al limite del dolore estremo, fino al limite della nostra forza, continuare a resistere e continuare a sopravvivere, pese a tutto, al dolore, alla sofferenza, e riuscire a trovare quella forza che abbiamo ognuno di noi, dentro di noi. La storia che ho vissuta attraverso il gruppo che mi ha fatto conoscere la cara Silva, per me è stata conoscere e vivere la storia, conoscere la storia dal vivo, raccontata dal signor Bruno. È stato un libro aperto, ho capito tutto quello che in scuola non riuscivo a capire, attraverso tutte le altre persone che hanno vissuto, l'esperienza e che possono raccontarla perché l'hanno vissuto nella loro pelle. Una frase che mi aveva chiesto, che avevo presa da Pincola Stese nel Giardiniere dell'Anima, e chi riesce ad arrivare alla fine di una storia diventerà saggio. E questo per me è stata un'esperienza bellissima. Io ti ringrazio di cuore anche a tutti voi. A te. Zora? L'altro gruppo, ne ho fatto 5 gruppi per i Family Book e questo è un altro gruppo. Ah, quindi io rappresento un gruppo? Certo, direi di sì. Oh. Allora, nel nome del gruppo, salve a tutti, mi chiamo Zoran, vengo dalla ex Jugoslavia, dopo di che lo sapete la storia dell'ex Jugoslavia quando è iniziata la guerra, insomma, ero poco più di 20 anni e sono arrivato in Italia. Però dopo, prima Milano, poi ormai qui in Alto Adige sono 15 di anni. Ho la fortuna di lavorare nei centri giovanili, sono un animatore, educatore, quindi conosco anche dal mio punto professionale, diciamo, questo territorio, che è molto bellissimo, insomma. ormai appartengo. Faccio un pochettino un passo indietro per collegarmi. Quando la Silva, la cara Silva, ci ha invitati, diciamo, a partecipare al Family Book, stavo per preparare la documentazione per la cittadinanza, per la cittadinanza italiana. Siccome lo sapete, 10 anni ci vogliono. E quindi questa è una un po' particolare situazione di chi deve diventare un cittadino italiano, quindi per naturalizzazione, per lavoro, quindi per una permanenza di 10 anni, più di 10 anni, ormai ho anche 15 anni, sono un po' in ritardo. Quindi si trattava di una specie di identità personale, quando te abbandoni il tuo paese per qualsiasi motivo e vai ad abitare in un altro paese, ecco. E stavo proprio riflettendo di queste di questa mia identità, che col tempo ovviamente cambiava in continuazione. E ho cenato, quando sono entrato nel gruppo, ho cenato proprio a Silva che io sono partito con l'idea, perché riflettendo mentre raccoglievo la documentazione, che a me serviva praticamente una connessione, cioè tra la popolazione autoctona, diciamo, di fare praticamente di incontrare la popolazione, che poi Family Book mi ha in qualche modo permesso, di capire i valori, diciamo, di questo territorio e della popolazione che abita. E nel nostro gruppo c'erano anche le anziane, insomma le signore anziane, molto, diciamo, simpaticissime, molto vivaci, molto, sembravano tredicenni. E quindi praticamente stavo, cioè il mio obiettivo proprio era lì, mi mancava la parte che io l'ho persa, cioè a me io ho perso questa prima parte perché ovviamente non sono nato qui. E come guadagnare questa prima parte di chi viene e che diventa cittadino, diciamo? Cioè attraverso una connessione degli anziani, perché loro sono in qualche modo veri portatori di valori, e poi valori del territorio. Una parte, quando uno vive in questo territorio e non è nato qui, una parte è la bellezza, le montagne, tutto quello che in qualche modo noi vivendo qui sfruttiamo, tra virgolette, perché ci piace sciare, ci piace questo, ci piace l'altro. Ma questi poi diciamo incontri con la popolazione, dove ovviamente devi accumulare quali sono questi veri valori che parlando dei valori, era come una specie di staffetta. Cioè gli anziani, accumulando questi valori durante la vita, che sono direi preziosi anche per me, mi sembrava come una specie di io immaginavo una staffetta che diciamo, avendo questo ottenendo questo contatto con gli anziani, ascoltandoli, io devo in qualche modo capire per loro quali sono stati acquisiti i valori e portarli avanti. Cioè io vorrei essere anche un altro portatore, un nuovo portatore di questi valori che questo territorio vorrebbe portarli nel futuro. Cioè io vorrei abitare qui e vorrei nel mio futuro rimanere in questo territorio, e quindi per me è essenziale diventare cittadino, ma capire ovviamente quali sono i valori che devono essere portati avanti, anche perché gli anziani vogliono essere anche un po' tranquilli per il futuro, che i giovani. Io sono 40 puntini anni, quindi mi piacerebbe, ecco, essere una specie di connessione tra il mondo anziano e il mondo, diciamo, loro, giovanile, che deve portare loro. Sì, assolutamente. Che deve portare, ecco, avanti la cultura, i valori. E questa è la prima parte che io praticamente l'ho vissuta. La seconda parte era che, essendo omogeneo il gruppo, il nostro gruppo, e quindi ascoltando diverse storie, io ero convinto che solo io avevo una storia. Invece, in qualche modo, ascoltando le storie di tutti quanti, io uscivo e entravo in ogni storia e mi identificavo. Quando sono uscito ero un po' sbalordito, perché dicevo, ma è possibile che io cambio ascoltando una storia dell'altro? di cambiare anche me stesso, cioè sono uscito un po' diverso perché ho vissuto nel vissuto degli altri e quindi ho avuto questa sensazione un po', diciamo, di uno stato un po' più ricco e anche più felice, ecco, cioè felice nel senso che comunque qui in questo territorio stiamo molto bene, ma la provenienza di ognuno, diciamo, essendo diversa, e poi gli anziani raccontavano, cioè si trattava di una generazione degli anziani che hanno passato anche dopoguerra, quindi la miseria, e giorno d'oggi che è un benessere molto molto molto alto, e poi vissuto di chi vuole venire ultimamente passando dagli altri paesi delle storie davvero allucinanti. E questa cosa praticamente è stato un passaggio molto molto intenso emotivamente, e non so cosa dire ancora, sto mettendo dei puzzle, dei frame, direi che va benissimo. Ah, Danilo, devi dire qualcosa? Allora, come ha detto Zoran, come ha detto Gladys, Family Book è servito proprio per conoscere i valori a livello esperienziale, quindi valori in azioni. E io volevo ringraziare tutti. Vedremo adesso un estratto video del lavoro in cui ci siete più o meno tutti, poi da domani appunto ci sarà la mostra. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato, per me è stata un'esperienza stupenda, perché vedervi prendere del tempo il sabato e la domenica, vedere andare le persone in cantina, prendere le foto, partecipare una e due, tre volte, portare gli album, dedicarci i luoghi, gli spazi, dedicarci le proprie storie, per me è stata un'esperienza stupenda. Dai risultati so che è stata anche per voi. Da quello ringrazio tantissimo chi ha portato la propria memoria, e so la difficoltà di riportare memorie della guerra, quanto è difficile riportarle a tutti, quanto è doloroso, e quindi io posso solo che ringraziare, e spero, ecco, insomma, di continuare questo progetto con tutti voi e di continuare anche il prossimo anno. Family Book 2, 3, 4. Brava. Qualcuno gentilmente laggiù può schiacciare l'interruttore in mezzo, così spegniamo la luce centrale. Ok, grazie. Al percorso che propone la fotografia di famiglia come occasione di incontro e dialogo tra culture e generazioni, l'album di famiglia, specchio della propria memoria e simbolo di esperienze, emozioni e valori, si propone come un'occasione di confronto tra le persone della città di Bolzano. Ognuno, attraverso la propria fotografia, può rivelare infinite storie e insieme di queste storie creare una nuova e unica fotografia di famiglia. Volevo tornare a quel posto della mia nonna. Se io non avessi avuto una foto che portavo con me, non sarei mai riuscita a trovare dove io ho iniziato a essere consapevole che sono viva. La resistenza è una cosa che pensi tu, che pensa la tua testa e tu. Queste non sono tre cose che penso. Sono tutto cuore. Il cuore cosa pensa? Il cuore pensa tutto. La resistenza è la riumanizzazione, il ritorno all'umano, noi in relazione agli altri, tutto il giorno, 24 ore su 24. To resist, you have to respect yourself and respect others. Voi uomini, i giovani di oggi, voi, se avete la pazienza e l'occasione di leggerci, vivete nella storia passata, memorizzate quel periodo. Il valore della memoria è vostro, e attraverso i ricordi noi vi affidiamo il grande compito di evitare di cadere nuovamente nei passati errori. onorate i grandi valori per i quali le vittime dei campi di concentramento, dei fronti di combattimento, delle prigionie, delle città bombardate sono decedute e con tutte le forze impedite che si ripetano nel mondo questi tristi e malvagi dominazioni. Allo staff delle feste e resistenze, grazie alla biblioteca Claudia Augusta, grazie all'assessorato e alle associazioni che ci hanno aiutato. E come ha detto Aziza, la bambina che avete appena sentito, che cos'è la resistenza? Che sei tu, la tua testa e il tuo cuore pensa a tutto. E così anche un fotografo, Henri Cartier-Bresson, diceva che la fotografia è mettere sulla stessa linea il cuore, la testa e gli occhi. Ed è un po' quello che abbiamo fatto durante il Family Book. Abbiamo usato la fotografia in questo modo qua, come non siamo stati fotografi nel senso vero, nel senso classico della parola, ma siamo stati narratori di vita e abbiamo utilizzato la fotografia come testimonianze delle nostre vite. Cioè, mi è arrivato la stessa. Sì. Volevo disturbare. Abbiamo appena finito. Allora, beh, innanzitutto ti saluto e vi saluto. Sono riuscito ad arrivare all'ultimo perché ero in commissione cultura a Bolzano dove si discuteva di capitale europea della cultura, quindi mi riaggancio. Avete visto, il lavoro è meraviglioso. Io sono veramente molto felice e molto orgoglioso di questo lavoro che ha fatto Silvia, di cui siete protagonisti voi e sia il protagonista del quartiere. Credo che il Festival delle Resistenze proprio qui trovi una sua collocazione meravigliosa, cioè è un processo di rete sociale. Quest'anno l'abbiamo chiamato tessuto sociale e quindi questo, le foto, il processo di riconoscimento, il creare rete fra gli abitanti che stanno da tanto tempo in questi quartieri, i nuovi abitanti, sia proprio bello. Quindi grazie di essere venuti, noi vi aspettiamo appunto in questi giorni in piazza, saremo in piazza 6 giorni, avremo lì le tende, saremo fisicamente presenti, ma è una cosa bella uscire dall'ufficio, dalle carte che ci sommergono, avere questo contatto diretto, sentire i problemi e poi produrre anche qualcosa che nel ricordo, guardate, questo può rimanere. E concludo dicendo, questo è un prodotto che testimonia le vite delle persone, le vite concrete delle persone reali, ma è anche un prodotto artistico. Quindi attraverso il tessuto sociale facciamo anche cultura e attraverso la cultura facciamo tessuto sociale. Veramente meraviglioso, grazie a tutti. Vi aspettiamo.